il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si fa presto a dire farina. Per i veneti la farina era, per antonomasia, quella di mais, la polenta insomma, che fosse gialla o che fosse quella bianca consumata soprattutto nella pianura. Oggi le farine sono tantissime, parliamo di grano duro, di grano tenero, di farina di farro, di orzo, di avena, anche di grano saraceno. Tantissime farine. Abbiamo incontrato Leonardo Gagliardo, titolare dell'azienda agricola Le Barbarighe di San Martino di Venezia, un'azienda che ha affiancato alla propria produzione biologica di cereali anche quella di macinazione, quindi riproduzione delle farine. Signor Leonardo, la vostra è un'azienda storica, esiste da ormai quasi un secolo. Quando e perché avete deciso di convertirla al biologico? Allora, è successo alla fine degli anni 90, perché ormai l'agricoltura convenzionale avevo provato tutto, volevo qualcosa più rispettoso dell'ambiente, allora ho cominciato prima con delle siepi, poi delle fasce boscate e quindi è stato naturale dopo convertire parte dell'azienda in agricoltura biologica. Il vostro prodotto principalmente è il cereale, voi vendete cereali, fate soprattutto farine e macinate a pietra. Quali cereali e che cosa contraddistingue un po' questo tipo di lavorazione? Sì, i cereali sono, diciamo, la maggior parte dei cereali a paglia che si coltivano nel territorio, che quindi grano tenero, grano duro, farro, orzo nudo, avena nuda, la segale e poi vecchie varietà di mais da polenta che è il mais cinquantino e il mais biancoperla. Che cosa contraddistingue un prodotto integrale, un cereale integrale rispetto al prodotto normale? Allora, bisogna distinguere una farina integrale macinata a pietra da una farina integrale non macinata a pietra. Macinare a pietra vuol dire macinare l'intero chicco, che è composto dal germe, l'endosperma che è la parte farinosa e la parte esterna che è ricca di fibre, che è la crusca. Si macina tutto e poi si setaccia. Invece si può trovare un integrale, diciamo tra virgolette falso, o che non è macinato a pietra, che prevede sì la crusca, sì la parte amidacea del chicco, ma non prevede il germe, che è la parte viva del chicco, dove è presente la vitamina E e vari enzimi. Quindi, ricapitolando, se noi prendiamo una farina 0 o doppio 0, di fatto abbiamo una farina che non solo è setacciata, ma addirittura in partenza viene depurata dalla scorza, ma anche dal germe. Sì, la farina doppio 0 è amido proprio in purezza, perché è solo la parte interna del chicco, e quindi è ottimo per fare dei pani che hanno molto glutine e quindi lievitano molto, contrariamente alle farine integrali che hanno poco glutine, perché una parte della farina è fibra e germe. Di che cereali stiamo parlando? Principalmente il grano tenero, ma anche molti altri. Voi avete una bella varietà di prodotti che tra l'altro sono coltivati da voi, macinati da voi, quindi l'intera filiera. Sì, allora parliamo innanzitutto di cereali sempre coltivati col principio dell'agricoltura biologica, quindi con cimi organici e non fitofarmaci. Abbiamo il grano tenero, che è sempre il primo dei cereali perché è il più usato per la panificazione. Poi segue il farro, che è il vecchio grano con un sapore molto particolare. e poi il grano duro, che va bene sia per la pasta che sia per la panificazione, e la segale per fare il pane nero, l'orzo, che come farina è da o fare biscotti o da aggiungere in piccole percentuali all'impasto, lo stesso l'avena, che è molto ricercata perché ha un'alta presenza di beta-glucani che abbattono il colesterolo. E poi abbiamo le farine da polenta, mais cinquantino e mais bianco perla, che sono integrali, non bramate come la maggior parte delle farine da polenta che si trovano in commercio. Hanno il difetto però che hanno bisogno di tempi di lottura molto lunghi, vicini all'ora. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. 'Cause you can count on me, as long as I can breathe, you should know. I'll carry you through the night, through the storm, give you love, only love in return. I can jump on. I would. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di farine e lo stiamo facendo con Leonardo Gagliardo dell'azienda agricola Le Barbarighe di San Martino di Venezia in provincia di Rovigo. Il mais cinquantino è una varietà che si trova raramente in commercio perché ha una piccola produttività. Ci può parlare di sia del mais cinquantino che del bianco perla? Quali sono un po' le caratteristiche di queste due farine? Sono, come ho detto, delle vecchie varietà che sono molto vitree e quindi molto adatte della polenta. Ma quello che veramente si distingue, non è facile trovare in commercio nessuna polenta che si avvicina al sapore del mais biancoperla, perché il biancoperla ha un chicco molto vitreo, mentre in commercio le farine da polenta bianca sono molto amidacee. E è una pannocchia molto grande che viene raccolta a mano, che una volta veniva coltivata in 3-4 file negli orti a uso domestico. E negli anni 50-60 si è persa perché, appunto, per la scarsa produttività. Il bianco perla, quindi, è selezionato a mano e anche consumato solo in 4 province italiane, anzi venete. Sì, è la particolarità della polenta bianca perché è usata solo nel Veneto e è sempre stata fatta con questo mais bianco perla che causa la sua sia elevata mole sia la scarsa produttività era stata abbandonata negli anni 50-60. E quindi nei primi 2000 un gruppo di agricoltori decise di fare un'associazione che si chiama Conservatori Mais Bianco Perla, in modo da portare in vita di nuovo questa varietà e coltivarla sempre in una piccola superficie. È un presidio slow food, questa polenta, questo mais bianco perla, questa polenta che si può anche abbinare ad alcuni particolari piatti. Sì, nel 2004 slow food, vedendo questa associazione, decise di fare un presidio di questo mais perché appunto stava scomparendo. E quindi le slow food ci ha aiutato a farci conoscere e soprattutto ci ha fatto conoscere i ristoratori e sono nate così le cene dell'alleanza dove il ristoratore usava almeno 3 prodotti, 3 presidi slow food del Veneto. E con cosa la possiamo abbinare quindi? Con il pesce per esempio? Sì, era particolarmente coltivata nel Polesine, soprattutto perché nel Polesine si è sempre mangiato pesce di fiume o pesce di mare, e da abbinarsi, come ho detto, col pesce, ma anche con delle carni bianche di coniglio o coi funghi o col formaggio. È un sapore molto delicato, contrariamente alla gialla che ha un sapore molto più forte. Ecco, ultima domanda, so che i vostri prodotti si trovano soprattutto in alcuni negozi biologici e vengono molto venduti nel circuito di gruppi di acquisto solidale. C'è richiesta, c'è mercato per questo tipo di prodotti? Sì, c'è richiesta soprattutto questi ultimi tempi di non tanto della polenta perché sempre meno, ma soprattutto per fare il pane in casa e quindi grano tenero, farro, e sta crescendo anche l'uso di cereali in grani da consumarsi tali e quali o in zuppe, aumentando soprattutto il consumatore vegetariano. Grazie. Concludiamo la trasmissione con alcune brevi notizie. Il 20 di febbraio partirà il corso di formazione L'arte di fare la birra, organizzato dalla Scuola Enologica di Conegliano in convenzione con l'associazione OIC. Il corso si terrà appunto presso la Scuola Enologica di Conegliano e anche in 2 birrifici artigianali del territorio e uno stabilimento industriale. Obiettivo è fornire le conoscenze e le competenze teorico-pratiche per la gestione di impianti per la produzione di birra. Il corso avrà una durata di 100 ore e si articolerà in 7 o 8 settimane a partire dal prossimo 20 di febbraio. Il costo è di 800 euro. Informazioni si possono chiedere alla scuola enologica appunto di Conegliano. Meno zucchero negli alimenti per i bambini è quello che ha stabilito l'Europarlamento ponendo un veto su un progetto della Commissione che avrebbe consentito agli alimenti per bambini di contenere fino a 3 volte la quantità di zucchero raccomandato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. E infine, zootecnia in crisi, è questo il titolo di una nuova pubblicazione di Europe Direct Veneto, lo sportello di Veneto Agricoltura che si occupa appunto di informazioni relative all'Unione Europea. Le difficoltà che stanno affrontando i comparti della carne e del latte sotto gli occhi di tutti sono l'argomento principale di questo libricino che si può scaricare da internet o richiedere. Informazioni le potete trovare appunto sul sito internet di Veneto Agricoltura. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.pluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.